Sassi che il mare ha consumato sono le mie parole d'amore te. Io non ti ho saputo amare, non ti ho saputo dare quel che volevi da me. Diciamo, è stata detta mille volte, ogni attimo che noi viviamo è stato vissuto mille volte. Sassi che il mare ha consumato sono le mie parole. Amor.